come fa? E di notte con le scarpe tutte rotte. Allora già ci sei, sì. Stanotte hai lavorato forte. Tu hai travagliato forti, non io. Sì, è riposo, ci sto attento a una befana, è riposo tu. Scusa, Se avessi reggita Gadria, se ti vuole accadere a terra, già rimani, tu ridi, no, innamora, no, andano, si imbarra questa Gadria, buttiamocela. Ha bisogno da dito, può sedersi uno alla volta. Adesso ti mando la fotografia con il successo. Attenzione, la befana del canale 10, Dappa. Ho visto che si è mugiata. Io si sono fatti di frullana, i cicatri. Sì, adesso mi avvicino al letto, già. A rimanere a i gatti mi si fa cadere un letto. Facciamo fare quei lavori dei saltarelli. Praticamente c'è, l'avevi arrangiato, ma ci mancava già il piede centrale. E tra l'altro dovevi tutto arrangiare, fa buchi, vai, non ammara. Casa tua è tipo quella di mio figlio, dai. C'ha il piano giù e poi su c'ha la camera da letto. C'ha le scale così. Sei un padrone. Non so come si chiama. Lì abita mio figlio, lì vicino a Santa Caterina, dove c'è l'agenzia funebre, lì attaccata ai rischi. Ah, come va? Se ne è andato da solo, non è mia zia che sta con voi. Se mi chiedo un po' c'è la sola, meglio Amaco si va di esperienza, no? Vabbè, meglio usci. Noi ci siamo voluti, ma tu ne capisci di Enel? Di Enel Energia. Ehi! Che è successo? Poi te lo dico un gran messaggio, brutti figliori di... Aspetta un attimino che ti chiamo. Un attimino, Luca, ci sei? Hola, Chico! Avanti. Hey, buonasera. Buenas dias. Salini. Ehi, bene, a chi ce li ha? Non mi è toccato niente, si hanno diviso tutto, Antu. Cappa. È una cosa allucinante. Sì, un'aria bassa e basse, mi. Prima ce l'avevo un po' più alte, adesso ce li ho basse. Il calore li fa bene. Deve essere di sì. Bene, sto uscendo, Antu. Che cazzo, non venne più in occhio. Natali, c'è a fondo scala, sì. Vabbè, quello è perché siamo vicini. Sto usando l'omologato, mi già si sente dal bip. Guarda, ti scommetto che ti ha induito, tu mi intendi. Va benissimo, va. Ora. Certo che ti sento. Allora vuoi un MB+4 che te lo regalo? Io sto pensando a me ne sono biglietti. Ma Savini? A vero sei Natalini. Ne ho due. Uno è in scatola ancora. Devo cambiargli solo lo spinozzo e buffer adattarlo a questo. Sto passando, mi sto mettendo le scarpe, sto passando. Vieni, da. Cappa. Avanti. Sono di moto, in macchina. Chi su di voi? Dimmi. Dai, sono qui. cosa Antu? No, va, questo è a 4, questo che c'è, il connettore. Nell'altro è che ce l'ho a 6, perché è fatto per quell'altro omologato che ho. Quindi è a 6, devo buscarmelo io uno a 4. E prega, te ne già c'è a 4, è già piazzato quello a 4. Non lo so, vabbè, vediamo, da. Io, quello che è piazzato è a 4. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, con chi parlo? Io sono Claudio Spagliero. Cazzo, quel cuocomane. Ehi, con chi stai parlando? Con un altro cuocomane? Mi con quel cuocomane di Antonio sto parlando, che è confortabile. Ah, corribaltabile, Antonio. Bacio, bacio, arrivi corribaltabile, ma già funziona, va. Cazzo, vuoi un freddo, una ferita. Mamma mia, Roma, sto... Ma, oh, Cla, io sono uscito, non ce n'era questo freddo, sono uscito a portare il cane e poi a mettermi in moto la macchina che avevo la batteria scarica, ma già c'ho la cura io e l'ho messa subito in moto, poi mi sono fatto un giretto per farla caricare, capito? Perché domani devo fare cose e mi serve la macchina. Magari lì è più riparato, Natori, è più riparato, cazzo, Menoga, in montagna, vabbè, un freddo, sono 6 gradi, cazzo, 6 gradi. Me lo posso immaginare, no, qua c'era il sole pure. No, che qua c'è il sole, però se ti metti al sole un po' lo senti, ma se stai all'ombra, mamma mia, l'ombra è sto. Cappa. Anda bene Meda, domani mi serve la macchina, c'ho l'avviatore professionale, mi l'ha già attaccato, Bruno, al primo goi. Quello così, quello già la fa andare, non ti preoccupare, quello viaggia forte, alla grande viaggia, non problema. Infatti, la giocata, almeno domani metto in moto subito e vado a fare quello che devo fare. Io quando siamo stati praticamente chiusi completamente, non come adesso che ci sono insomma le restrizioni, e ci ho messo la batteria io, perché non la stavo mettendo più in moto, sono andato morta, completamente morta. No, questa già si è salvata perché me l'ha fatto l'altra volta, solo che l'ho caricata poco ed era sempre ferma qua la macchina, e se tu da caricare. Allora, discuto un coipo e vediamo un po' così, domani buono in moto, e se no già avverrà l'avviatore. Gappa, gappa, cos'è che le serve Antonio? No, deve venire qua, che gli devo dare una cosa, gli devo dare uno spinotto, mi sembra che gli serva. Ma quel microfono da tavolo, se non luci, perché non glielo dai a luci? Allora, come buoni con la radio, esce va bene. Glielo sto dando, ne ho due di quelli, di MB più 4, uno è in scatola addirittura, solo che c'ha lo spinotto a 6, gli devo mettere quello a 4 io, per adattarlo qua, ma non lo uso neanche, cosa... me lo tengo lì in scatola, magari un domani. Sì, Natali, non fa onore, tienilo uno, perché può sempre servire, io addirittura ne ho comprato due, capito, che li avevo dati e poi me li sarei comprati, ho comprato più 4 e più 5 nuovo la frisata, perché per i vintage, no, se no rimangono senza microfono. No, Antonio, se le serve un connettore a 4 già ce l'ho, ma no, io non ne so come fare, a me me li fa nulla perché io non ci vedo, no. Ah sì, ce l'ho io, non c'è problema. Mi rugavemo da chi su nuovo e tiro d'olio. A 6 ce l'ha perché lui. Vabbè, allora mi dice a quanto è, se è a 6 ce l'ho io. E se no domani anche ti rubigli da Fusaro. Oggi sì. Claudio ha detto che ne ha di quegli spinotti di microfono, boh. A 4 però a 6 no, a 6 non ne ho io Natali, io a 4 ce l'ho, se le serve. A 4 già è già attaccato in quel microfono che devo dare a lui. No, qua a 6 non ne ho Natali, io l'unica radio che ho a 5 è l'Intec 3104 e boh, gli altri sono tutti a 4, capito? Comunque se è a 6 ce l'ho io. E Conce, vai a aprire la porta che sta venendo Antonio. Oh, prova. Uscendo a sta Già se gli scendi, guacquomane. Non mi stava innescando, sopra che me lo fa ogni tanto. Aspetta un attimo, Ciao. Ma che è quel guacquomane di Luca? Ma quel guacquomane sì che sta facendo bbb. Ma è vero. Befano, come l'hai portato niente stamattina? Befano sarai tu, e poi ti arriverà un bel po' di carbone perché sei monello tu. Allora ha portato un po' di amarezzi buoni, eh? Buoni, morbidi, morbidi, proprio buoni. La Befana. Allo senti Antonio, lui. Oia. Io ero grido. Gaba gaba. Luca! Luca non risponde. Quello si sta mangiando gli amaretti alla faccia nostra, quel cuocuomano. Speriamo che ce l'ha lo spinotto, così almeno vediamo come esce. E guarda quanti pin è, così vediamo. Gaba gaba. Luca! Dai, cuocuomane! Ah, il baccolino condo. Ebbè Natalì, hai visto che bella giornata di sole? Porca miseria, solo che non puoi manco cambiare comune. Eh? Non posso andare a Protorre se voglio a farmi in giro. Bubu. Auguri, Befane. Grazie, grazie. Mi estendo gli auguri anche a mamma, che lei dice sempre che è la sua festa. Infatti è vero. Ciao a tutti. Ah, sei bella. Buongiorno, buongiorno, tanti auguri a tutti. Ciao Tino, come fanno? Auguri anche a te, mi sto facendo una, sì, quello doc, buono, buono veramente. Poi con un amaretto di quelli freschi, morbidi, morbidi, guarda, un bijou. Ah, hai visto Marco a Luca che si vuole mangiare la bajou, boh. E così diventa tutto luminoso, mi di notte. Va bene, sono entrato a salutarti che sto facendo una configurazione su una campante, li ho sentito e ne ho approfittato. Sono in Quirix, ciao a tutti, se prendete va. Ciao. Oh Marco, mi si illumina di lampe di svella, riprendi va. Ehi Lu, ben sentito anche a te. Io mi sono fatto il caffè adesso con la macchinetta nuova che mi hanno regalato e non l'ho comprata. Devo dire che è un bijou, non sporchi nulla, un veloce. Riprendi Natalì. Ciao Tino. Io sono uscito. La macchina è in panne che non partiva, ragazzi, ma già c'ho la cura io. Ma la batteria? E allora, ma io c'ho il booster, gli ho attaccato il booster e un colpo di cose e subito a poco in moto. Gli ho fatto fare un giretto per caricarla, perché domani mi serve che devo fare delle analisi. E tu Natalì, non ce l'hai un caricabatterie a casa per auto? No, caricabatterie non ne ho, però c'ho il booster per farla partire. E io, vabbè, caricabatterie è sacro comunque, perché anche la mia è molto molto ferma. Noi, anche quando si può uscire, stiamo uscendo una volta alla settimana, E quindi col freddo stavo arrancando la batteria e l'ho caricata l'altro giorno l'ho caricata. So che adesso siamo punti a capo, adesso vogliono estendere il lockdown oltre il 7. Non ti dico cosa mi hanno rotto con questa storia, tanto amico, come vedi, i contagi, che chiudano o non chiudano, stanno sempre salendo. E allora andiamo incontro al destino, quello che capita, capita. E speriamo che facciano in fretta a vaccinare la gente. Speriamo che ne vedo la fine di questa disgrazia che ci ha colpito, perché questa è una vera e propria disgrazia. E anche il vaccino però, boh, girano voci già di casi che qualcuno è stato male, effetti collaterali un po'. Praticamente stiamo facendo da cavie, non esiste, vabbè. Io per me non ne farei, se lo faccio è solo per tutelare mamma, se no per me me ne fregherei. Capito? Luca, c'è ancora? Luca è con la Bajur e quindi niente. Bene, ho acceso per vedere se c'era qualcuno, c'erano radiomotori su un ponte, così. In HF non ho ascoltato oggi, non ho acceso niente oggi. Va bene, ui ui. Scappa. Ma cosa lui ti dispiace? Speriamo di vederne la fine. Eia, la nostra fine vedremo. Speriamo di no. Tutto, l'umanità si deve estinguere, almeno per quello che ha combinato al pianeta, capito? Quello che ha combinato alla natura, l'umanità, e la natura si sta girando adesso, hai visto? Capito? Il pianeta senza l'uomo sicuramente si riprenderà e starà molto meglio. Evidentemente non ti sentono, Antonio col portatile sta chiamando, lo senti? No, aspetta un po' che provo. Antonio, chiama, prova. Sì, appena, Santiago 5, il QRM è 3, tu sei 5, ho dovuto togliere lo squelch, perché sennò non passavi. Ciao, lo sento, ciao Marco, buongiorno. Ciao Claudio, ben sentito, anche a te auguri per il Befano, dai, ci siamo fatti tutti gli auguri per il Befano. E Antonio arriva basso anche qua, ma non so se sia a casa Antonio o se sia sul mezzo del lavoro. Antonio? Sta andando a casa sua, è a piedi col portatile, che era qui e gli ho regalato uno di quei microfoni, di l'MB più 4, perché ne ho due io, capito? Poi non ne sto neanche usando. Per tenerlo fermo qui l'ho dato a lui. Vicino a casa è Claudio, e qua arriva bassissimo, se arriva basso qua figurati là che sei anche più lontano, più in alto ma più lontano, e infatti i portatili rendono poco in città, non rendono niente, vai Claudio. No, qua non lo sento, poco fa l'ho sentito, adesso non lo sento più. Bretella. Marco, io tanto mi sposto, dai, che Marina è riuscita a portare i cani, io sono un bel piccolo, così con il freddo, come i biazzi, Marina si è sempre accuccata bene, ed è partita a farsi una passeggiata, e sto controllando il pollo, capito, adesso metto a fare la pasta al forno. Buona, poi fatta in casa è ancora più buona. Luca sta sempre cucinando, dove rivetti mani a bollo e pasta al forno. Eia. È buono, a chi piace, caspita. Buono, ti volevo chiedere Claudio, sì, 9 più 20, stai usando un apparecchio vintage, no? Pochi watt sicuramente. 4 watt Midland 574 MB più 5. Beh, naturalmente 9 20 a questo smitter, se io metto quell'altro che ha 9 più 60 di fondo scala sicuramente sarei un più 30 per quello. Ha una modulazione ottima, caspita, certi vintage vanno veramente ma veramente bene con modulazione e come ricezione ne imbatte. Guarda, io quelli che ho, non per vantarmi, ma sono uno meglio dell'altro, c'ho questo 574 della Midland base, tanto spettacolare come radio perché è bellissima, già l'hai vista. Poi c'ho l'Inuit che è favoloso, sia ricezione che trasmissione, anche il 3104 della IT che va molto bene, il Pony non ne parliamo, c'ho il Fatch, il DAC. Guarda, non so se tu hai visto la foto, ma io c'ho 7 microfoni in fila, 7 MB più 4 MB più 5, ognuno per ogni radio, ok? 7 radio, 7 microfoni, se vuoi ti mando la foto. E sono uno meglio dell'altro, tutti funzionanti al 100%. Non ne voglio da soprammobilio di radio, capito? Ho fatto un lavoro di commutazione dalla base HF a questa, perché ho due basi adesso, due postazioni, e quando voglio parlare con i vintage non devo fare altro che accendere la radio, perché sono tutti alimentati a 220 senza alimentazione, 12 volt, sono tutti a 220, le sto prendendo tutti a 220 per quello. scomodo dall'antenna su questa base vintage e parlo con i baracchini. Voglio andare dall'altra parte, comodo, e vado dall'altra parte. Capito, Marco? Ehi, aspetta, guarda il profilo tuo, non so se l'hai messo sul profilo, le foto. Oddio, vedo un apparecchio chiaro e uno scuro sotto, è un microfono. No vabbè, qua se ne vede una se ne vede. Sempre mosse le foto però, mosse, poco definite, ma sembra addirittura una foto fatta da di quei cellulari a tasti vecchi, mi ti ricordi il cellulare a tasti, tipo Nokia N70 come l'ho avuto io. Fai vedere se c'è qualche foto migliore. Guarda, quella che c'è lì nel profilo l'ho cambiata da poco, quello che vedi sopra è il Pony e quello che è sotto è il Pace, il 2008R. Adesso ti mando la foto per intero della sala radio per due, fatta in due praticamente. Aspetta. E riprendi Natale nel frattempo. Ah, il Pony è quello chiaro. Aspetta, ma mai visti questi apparecchi? Porca miseria. Vai Natale. E cappa. Oh yeah. Ma sono contento, oggi sono uscito e stavo bene. Guarda Marco, te l'ho mandata, quella è fatta dalla porta, le due postazioni, capito? Poi devo farti le foto una per una e mandartele, comunque ce n'è. Due postazioni che così ordinate non le ho mai avute. Antonio, sei tu? Ho sentito come è mollato il bip di lungo di Antonio, credo. Caspita, sto vedendo la schiera di apparecchi e quanti microfoni, quindi uno per apparato, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microfoni. Porca miseria, insomma, raga. Marco, io quando mi scendo qua non devo stare a toccare niente, a togliere il microfono da uno e metterlo nell'altro, assolutamente. Io mi siedo qua, accendo la radio, commuto, e vado con ogni radio, col suo microfono, con la sua antenna. Non devo stare a girarmi le balle, capito? E sono tutte funzionanti, tutte, dalla A alla Z. Eia. E questi vintage ce li avevi già oppure li hai recuperati un po' anche da... magari chi te l'ha procurati, Capri, che è appassionato. Quindi hai messo da un lato tutta la roba vintage, CB, e dall'altro la roba professionale, con tanto di tasto codice Morse, mi pare, e 1, 2, 3 microfoni. Eia. Sì, vedi, quella è ordinata adesso. Bella ordinata, c'è spazio, io qua non posso appoggiare nulla, no? Ci sta un baracchino e ricevitore da tavolo piccolino, non mi ricordo di nulla. Avanti che vuole entrare? Nessuno. Ehi Natalismo, sai cos'è? Proprio quando fanno le giornate belle c'è il lockdown, cioè io mi sarei fatto un giro a Pro Torres, ma cambiare comune non va bene, rischio la contravvenzione, capito? Non rischio, sicuramente me la danno, non c'è motivo perché io cambi comune, capito? Vabbè, pazienza. E pazientiamo, e cosa vuoi fare? Sì, poi qua c'è una situazione particolare, in questa via non esce nessuno in questa via, lo sai, se esco con la macchina rischio di dover stare mezz'ora, tre quarti d'ora girando tra via Nizza, via Le Mameli, via Savoia e dintorni a cercare un disparato parcheggio. Pensa che c'è una macchina bianca, nuova, una Fiat, è ferma sotto la finestra da settimane e settimane. Cosa vuol dire settimane? Poi l'ha parcheggiata male, l'ha parcheggiata tra un parcheggio e l'altro, praticamente come se prendesse due posti. È un casino qua, è un casino, ci vuole il garage. In effetti sì. Adesso qualche io dei parcheggi, mamma mia, oggi me l'hanno subito fregato quello bello che avevo, ma già ne ho trovato un altro più giù di qui, e manco il bacco l'ha preso, vabbè, già me ne sono tornato piano. Poi vediamo se vuole riprendere, Luca, Luca sta brindando, sta. Allora, questo è un 140, gli altri cosa sono? 430? Oh Claudio, che non lo riconosco, forse è un 430 e un 440, può essere. 2 e 430, la linea completa, vedi, però lì c'è poco posto, quindi mi manca l'altra, perché ne ho un'altra che ho mandato ad allineare, a controllare bene, perché la devo vendere. E niente, quelli sono tutti vintage, li ho fatti da davanti. Eia, ecco, l'ho aperto adesso. Il DAC è megalitico, il DAC è il più grande di tutti, è incredibile, è bestioso proprio. Quello tutto a sinistra, che cavolo è? Uno strumento, quello tutto a sinistra c'è una sigla, Y27S, può essere, è grigio. Cosa sarà, un alimentatore, un accordatore, Cosa? Quello Y, quello lì è l'amplificatore. Quello è l'amplificatore lineare HF, che ho messo lì in caso mi serva, ogni tanto lo accendo, ma non è collegato, antenna non ce n'è collegato. L'amplificatore HF, quello è una bestia. Quello è il TL praticamente 911, capito? Ah, ecco, sembra una specie di accordatore, vedevo regolazioni, ho detto, ok, è vecchiotto quello, tutti ZGMB più 5 e poi c'è un più 4 anche, eia. Naturalmente io riconosco un po', guarda, riesco a riconoscere giusto la, perché ce l'ho avuta io, la base della Intec, quella B3104F, e gli altri non ho familiarità. Eia. Sì, una bella, e poi all'estrema destra c'è un microfonone, sogno Barrasone, che microfono è quello? Largo, sapevo il nome di un microfono del genere, ma non mi viene il nome, aspetta, cos'era? È Confounder, no, che cos'è? No, è un Expander 500, quello lì è della Perception, quello lì è il microfono del Simba, dell'SSB50, microfono suo originale, mentre quello in fondo è il microfono delle Gain Quinto, infatti è marcato Gain, bello, introvabile anche quello. No, già c'è bella roba, non ti preoccupare. Insomma, non ti mancano le radio, dai, quindi puoi cambiarne una al giorno senza annoiarti, come piaceva a me. Benché io poi alla fine preferisca su tutti gli apparecchi CB, che poi sono baracchini i miei, il 3009, non c'è storia proprio, mi trovo meglio, come tutto, mi trovo meglio con questo. No, vabbè, io uso questi vintage base perché escono bene per fare due chiacchiere, non è che hanno grande potenza, 4-5 watt il massimo. E va bene, siccome sono tutti funzionanti, ieri stavo usando il DAC, oggi sto usando il 574, ma stasera uso il 294 Lino IT, il 3104, lo standard che funziona molto bene, il Pony l'ho usato l'altro giorno, il Patch. Li uso tutti, Marco, li uso tutti, no? E ce ne ho anche altre tre dentro l'armadio, che praticamente adesso vedo un po' dove sistemarli, se sollevare il soffalchetto, sistemarli oppure cambiare, invertire, non lo so, dai, devo vedere qualcosa, mi devo inventare, perché ce ne ho altre tre basi lo stesso da mettere in funzione. C'è una sala radio da fare invidia alla questura di Sassari, Io c'ho il posto, cioè questa è una vera sala radio, nel senso che qua non entra nessuno, non c'è roba che vengono, prendono e fanno, questa è la mia stanza ed è adibita solo a sala radio, tanto è vero che sono separato dal contattore generale, io ho la mia alimentazione qua, sono alimentato a parte, ho le prese diverse, quelle industriali, l'impianto è fatto diversamente, cioè non... È questa, tutte le cartine geografiche, tutte le cose che servono. È una sala radio, Marco, se questa è così. Eia, vediamo se può riprendere Luca, se l'ascolto ancora. Luca, sì. Io c'è Natalino ancora. Cioè, era entrato anche a salutare Tino, un attimo, appena entrati. Ehi, KK di Nogiro. E adesso sono quasi nell'altra scrivania. Mi senti bene lo stesso con questo microfono? Sì. E se, forse se non me l'avessi detto, siccome io non presto estrema attenzione alla timbrica, se non me l'avessi detto non me ne sarei accorto probabilmente. Se non avete usando sempre il 60. Via. Comunque io vedo un 140, Claudio, e gli altri due sono uguali, ma il 140 è uno, lo sbaglio io? Sì, sì, 140 è uno, l'altro l'ho mandato al centro assistenza, ma non ha niente. C'è da fare, voglio farle proprio una taratura proprio perfetta, quindi l'ho mandato a dare una lineatina, sia SSB, AM, FM, insomma tutto. Non c'è niente da sostituire, la radio è perfettamente funzionante, però io la voglio vendere e voglio darla garantita, capito? No, come qualcuno che dà le cose e poi se ne sbatte le balle. Io sono fatto così, spendo degli altri quattrini, però quando do una cosa la do garantita con la massima serietà, perché così bisogna essere. Sì, il primo al 430, c'è l'alimentatore, il PS50 al 430, il 140 e poi un'altra radio, ok, che non è della Kibbutz, però se stai attento della ICO. Poi c'è la colonnina esterna e poi vabbè, niente, nulla, lì ci sta poca roba, quindi ho messo solo la roba che mi interessa. Poi sotto, nella base di sotto, ci sono gli alimentatori che non si vedono e una radio VU che non uso, quindi però la tengo accesa giusto per ascoltare, ok? Eia, che ce n'è, vai che ce n'è. Ehi, Luca ha detto che sta controllando ogni tanto la roba in forno. Volevo chiedervi, siccome ha chiuso Shan, io lo compravo sempre lì, sapete a Sassari chi vende i bidoni di Zibro originali? Interrogativo? No, io no. Proverò da Sed, probabilmente Bricomen, perché prima Bricomen aveva le stufette quelle tipo kerosene, no? Tosai, quella marca giapponese o di dov'è, e aveva il liquido Tosai, proprio marcato Tosai. Come ha chiuso Shan, probabilmente ha portato anche bidoni Zibro, e devo pigliare lo Zibro Crystal, quello col tappo blu, che è completamente inodore. Sì, perché qua comincia a fare veramente freddo. Tu sai che noi usiamo stufe e stufette a gas portatili, no? Però ieri notte la casa sembrava un frigo. E quindi le stufette individuali nelle stanze non bastano. E quindi volevo mettere in fondo al corridoio, no? Come apri la porta, in fondo al corridoio c'è a destra la mia stanza, a sinistra la stanza di mamma. E volevo mettere in fondo al corridoio la stufa Zibro, che fa 3 kW e mezzo, 3 kW di calore, in modo da scaldare proprio la zona camere da letto, bagno, tutta quella zona lì, che poi è dove passiamo il 90% del tempo. Ma perché non vi prendete una stufa a pelle e te la metti in una posizione dove scalda un po' tutto e risolvete il problema? Così mamma c'è una casa enorme a Porto Torres, e ha sempre questi termoconvettori accesi, consumando una barca di luce. Alla fine ha deciso, ha messo una bella stufa pellet grande. E guarda, io tutte le volte che andavo c'era da morire dal caldo, proprio pazzesco. Quella è l'unica soluzione, capito? Ah, Zibro, ti costa tanto comprare lo Zibro. È fiagosa, perché è fiagosa? Guarda, è fiagosa. Noi ce l'avevamo nell'ufficio lì a Sorso, questa stufa Zibro, ogni volta che entravo mi veniva mal di testa. È fiagosa. Mentre invece il pellet è molto più sano. Ehi, sai che ci avevo pensato io, una stufa pellet non troppo impegnativa? Tanto che io ricordi, noi abbiamo nel muro che dà sul muro maestro, dove non ci sono né finestre e né terrazzini, ci abbiamo un foro circolare, sembra fatto apposta per caldaie, cioè per caminetti o roba del genere, capito? E lì sarebbe il punto ottimale. È che qua, sai cos'è Claudio? Qua la casa è dislocata in modo particolare. E qua sono 100... Cioè se scaldiamo la zona vicina alle camere da letto, la zona cucina in compenso rimane fredda, molto fredda. E quindi risolveremo sempre a metà. A meno che poi non ne mettiamo una in zona cucina Cessino. E qua le stanze sono tante. Certe sono stanze piccole, sono come mini stanzini, però sono, entrando, comunque sono, contando anche i bagni, come aveva detto, bagni e stanzini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi 7 la cucina, poi c'è il mini stanzino degli ospiti, 8, e poi un micro stanzino dove c'è un gabinetto secondario. E insomma, è un po' difficile da scaldare qua. Poi sai, mettere i termosifoni non fa, bisogna sfasciare tutti i muri e piazzare i termosifoni, tubature, quindi volevamo optare per qualcosa di diverso. Pellet a me sarebbe piaciuto molto, però mamma non ne vuol sapere. E vabbè, Natalino, ci sei ancora? Già sono qui. E tu cosa usavi, Natalino? Voi avevate la Zibro o quella a gas? Mi pare una Zibro, o sto sbagliando io, quella a caminetto? La Zibro è solo che io la faccio andare col cherosene. Ah, cherosene, ehi. Comunque Claudio, una cosa, allora la Zibro, quella che ho io è a caminetto, non è di quelle piggioelettriche. Qui vedi la fiamma e c'hai uno specchio riflettente che ti fa l'effetto caminetto, vedi la fiamma viva in poche parole. Allora, io per fa un po' di odore all'accensione e allo spegnimento, però io la porto nel bagno, no? Chiudo la porta, apro la finestra, l'accendo e la faccio scaldare, una volta che è scaldata bene, la porto nel corridoio, no? Però quando è in regime di funzionamento, che è già in temperatura, non fa nessun odore. Poi per spegnerla naturalmente la porto in bagno, chiudo sempre la porta del bagno, apro la finestra e la spengo, perché questa fa odore solo in accensione e in spegnimento, però durante il funzionamento non ha odore. Ma sai perché anche? Perché io uso lo Zibro Crystal, che è il più costoso, però è quello in odore, e c'ha il tappo blu, perché c'è quello giallo, quello rosso di tappo, quello rosso costa meno, ma quello è fiaggoso, però il blu è il più raffinato, mi pare il combustibile si chiami isoparaffina, è trasparente come l'acqua, vai Claudio. Sì, lo conosco, mi pare che sia lo stesso che usano quella che c'è negli uffici a Sorso. Mi pare sia uguale a quello lì. Sì, però io sentivo questa puzza, questo odore di coso, capito? Quindi preferisco più odore di culo. Avendo la casa così grande, scalda. Capito? La metti in una posizione dove esce bene il calore e vedrai che state molto, ma molto meglio. Sì, quei fori lì, in quei tipi di case di vecchie, sono fatti apposta per mettere appunto i tubi delle canne fumarie e delle stufe così particolari, capito? Si usavano, quindi le facevano così. Vabbè. KK, no, io non posso aumentare, io ho il riscaldamento al gas, abbiamo la caldaia a gas, quindi scalda la sera, ci sono anche 24-25 gradi da paura, sono dei cosi grandi, capito, quindi ce ne sono tre nel salone. Uno ce n'è qua grande nella sala radio, uno grande in camera da letto, uno grande nella stanza di mia figlia, un altro ce n'è medio in bagno, insomma si sta bene, dai, non ci possiamo lamentare. KK. E me la tali, ma Antonio è andato via. Sono qui! Oh, cocco, ma è? Ehi, cucumetto! Allora, io fate sentire il tuo microfono. Non posso attaccarlo, perché non ho il connettore giusto. Ma quanto è quel connettore? A 5, a 6? 6, 6. Mamma, è rottura di balle. Ah, fosse stata a 4, te l'avrei dato io. Io a 6 non naggio. L'unica radio che ho a 5 punte è il a 5 con la ghiera e l'Intec, il 3104, mentre il Pony invece a 5 punti a spinotto. Gli altri sono tutti a 4, connessione Midland. Io no, io ce l'ho a 6. Adesso me lo buscherò uno. KK, guarda c'è bene con questa radio, Marco Antonio, va. Antonio, ce l'ho io a 6, nuovo addirittura, l'ho trovato nel coso degli spinotti e ce l'ho. Guarda, è come quello che ti ho mandato su Facebook. Non lo so, questo è quello del Kibbutz praticamente, 2, 4, no, è cazzito, è un bel, non so se, esito un attimo, chi sei di Kibbutz? No, è 8, Natali, quello del K. Io a 6. Guarda che te l'ho mandato su WhatsApp, non su Facebook. Oh, un attimo che arrivo subito io. Se lo compro la Fuggiaro. Infatti, ti l'attacchi domani. Non è che io lo so fare, no. Devono essere più seccanti da saldare, perché finché a 4 sai, c'è più spazio tra una saldaturina e l'altra, ma quando c'è un benipoli, mamma mia, devi avere la mano ferma, a me saltano i nervi, infatti io me lo farei fare da qualcun altro. No, già lo so da chi farlo fare, ma poi vediamo se si rigia. E poi devo usare la lente per vedere meglio, lo sai, perché la vista mia non è più come quando avevo 20 anni, la mia vista piano piano sta peggiorando. Mimì, è arrivata la Befana, auguri a te mia che c'è Natalino, saluta a tutti in generale. Natalino, ciao a te, saluta, io Befana saluto te e tua moglie e il tuo cane, mi pare, o gatto. No, cane, è un cane da pesca questo. Ciao, auguroni anche a te. Quello è un cane cuocuoma come padrone. Cuocuoma ne sei tu, hai capito? Ma Luca, non è che hai uno spino passino? Passino, Antu, no. No, a 4 sì, ma sì no. Vabbè, buschiamo, dai. Allora, il mobile come sa che è a 6. Però è quello, c'è il microfono suo attaccato. Lo so, è quello lì, va bene, quello del Mobicom. Sì, ma c'è un microfono amplificato attaccato. E cappa. Ma va bene, io l'avevo contattato, va bene anche questi apparecchi. Chiama Gava. Cappa. E adesso, me lo devo buscare, me lo devo. Lo devo buscare il collettore. Oggi è chiuso a Fusaro, domani vado e me lo compro. E infatti questi giorni di festa che chiudono i negozi mi hanno già rotto le scatole a me, mamma mia. Lo vedo la risarra. Poi magari non ci vado, però chiuso oggi, chiuso domani, tra Santo Stefano, Natale, Capodanno, questi prima dell'anno, vai in ora mala. Basta con queste feste, tanto mi non ho nulla da festeggiare. Lo so. Vabbè, domani con la calma vado e me lo compro, se non naggio cosa devo fare? Sì, ma penso che Fusaro ce li abbia, dai. O Fusaro GBC, è una cosa abbastanza banale, lo spinotto microfonico a 6 poli, 4, 6, 7 sono i più usati, anche 8. 8 tipo Kenwood, no, come ha detto Natalino. Luca, riprendi. Natalino, riprendi. E io ero convinto che era sì, invece è a 8. Vabbè, lo buschiamo. E infatti non l'avrà più usato. Che ce l'ha? Adesso appena che me lo busco e via. Mi sono comprato un cicchettino io, che è buono. Umbriaco nefragico. Lo conosce Anton Lassi, quello dolce, buona rizzo, eh. Sì, la giubiglio di chissà roba, oh, Lulu. Buono, buono, eh. Prima di pranzo ci vuole, là. L'abbiamo aperto ieri notte, ci abbiamo bevuto due bicchierini, l'abbiamo messo in frigo, adesso la stiamo bevendo, la rimanenza a pranzo, prima di pranzo, là. Buono, buono. Mi pare che veniva un poco in frigo, da voi poi io ero brutto un po' caretto. Avessi ancora buono. Mi hanno arricchato, mi rane. Meglio un gusto che sento marani di Ziani. E poi mi hanno regalato il coso, il passito, con i biscotti. Quello è buono, eh. C'è un umbriacone tragico questo. Quello va bene con i, per i diabetici. E vai, umbriacone tragico. Brusa. Che a me piacciono quelli dolci, dolci e frizzanti, però poco ne posso bere perché mi prende subito la testa. Io non lo reggo, io sono quasi astemio. Vabbè, uno è, allora pure io sono quasi astemio, però non bevo molto. Adesso questi qua, due bicchini piccolini, sono grandi. Poi a pranzo non ne tocco, a cena idem. Tutti delicati siete. Ehi, tanto lei sa cos'è, noi in famiglia abbiamo avuto un po' casi particolari e quindi non sono contro gli alcolici per quello, però ogni tanto anch'io dopo mangiato mi bevo un bicchierino di mirto o amaro oppure limoncino, però finisce lì, proprio in quei bicchierini di plastica usa e getta per il caffè a metà, boh, finito. Chiappa. Vabbè, già è buono, dai. Ui. Peccato che non ce l'ho qua. Vabbè, va. Piano piano già l'installo. C'ho una canna di whisky anche. Mi piace, Marco. Ecco. Adesso, capolugi, è un bel tempo. Oggi ci avrebbe donato così, adesso non so di che verso luna si sporca un po'. Me ne ero andato a mare, bello, col bel tempo, a fare anche un giro lì. Tanto non se conosci Antonio Iodo, lo conosci? Sì, lo conosco io. Siamo fuori di Gabo, stamattina a 3 gradi lui in piazza, dove c'era l'ospedale prima, l'ospedale quello... piazza Azzuni, vabbè lì, ha fatto un nudo allenandosi, a 3 gradi, ma ti rendi conto, 3 gradi. In piazza Fiume. Piazza Fiume, fuori di Gabbo, cioè anche tu come amico Natale. No. Fuori di testa, cazzo, cioè ha fatto un nudo. Mi dice, ma non si ammala uno così Natale. Se la voglia si ammala, la righi bicicletta, la broncopolmonite te lo voglio vedere. Comunque Antu, non è ammesso brutto tempo stasera, è tutto bello, è così, sembra un po' nuvolosetto, dalle 13 acqua non è ammesso, l'acqua l'ha messa domani 41%, poi venerdì, sabato a 92%, domenica, poi lunedì, martedì 24%, oggi la giornata è tutta così fino a stanotte. Così dice, così dicono. Che vabbè. Però vabbè, prima avete parlato in due, io penso che uno così sia male di brutto, anche se si allena, che suda, ma fa male, ma insomma, cazzo mi sono un cancare in un pigiama in casa, dopo tutto in carriera. Non so, non ho parole. È Marco di Gardena, cosa vuoi fare? E lo criticano, è allucinante. Poi si va al mare, anche se ci sono 3 gradi, si fa al mare, si fa il bagno. Sì, tutto quanto strano, Ma... Stiamo, chi credo? Ehi, vatto lì. Il suo coso è avaro, che sa parecchio. Te lo faccio girare lo smitter. Ehi, guarda, non mi mettere in coso, mi... Chi ti arriva più forte, io o Natalino, Luca? Altro? Chi ti arriva più forte, io o Natalino? Tu? Ma sei agganciato? È sempre agganciato, quell'Antonio è un cocuomane. Natalino 9,20, quasi, sgancia Antonio. Eia! 4 watt. Stesso segnale. E beh, non è che ci siamo tanto lontano, no? Vabbè, stesso segnale al vette comunque. Agganciato quanto sono? 9.30? No, quanto è andato lì? 9.20. È agganciato. Ah, sul più sì. Aspetta. Aspetta un attimo. Yeah, ok. Fai un passaggio. 1-2-3 prova, 1-2-3 prova. 1-2-3 prova, 1-2-3 prova, ecco. Vai Natali, parla tu. Natalino, parla tu. Guarda un po' com'è adesso. Guarda, ti ho mandato il video anche tu. Oh, Luca. Ne nasce quanto è lui. vabbè, diciamo che se ci facciamo un giro di conti sei più vicino tu di poco, ma sei più vicino tu Natali. Vabbè, ma lui è cocco, ma ne cosa ci posso fare? Sarà bella. Allora. Io Natali quanto ti arrivo? Vabbè, l'1 del 2009 è un po' zaccagno come coso. È secco come segnale. Come ti arrivo? Guarda un po'. 9.20 arrivi. Chi è positivo per lei? Adesso devo mandare, un tipo mi ha chiesto un po' di foto della radio, quello modificato. Infatti gli ho mandato la registrazione di Antonio, che l'ha fatto lui. Come arrivo a casa gli faccio un po' di video, se lo vuole, questo qua gli ho mandato. Ogni aggazzino che fate se lo metto in questa stazione. A tipo glielo ho detto, mi dai 200 euro per la spedizione e te lo do, se no gli rimane a casa, di mano non lo do, non me ne frega niente. Vai beh, non fatti il biglia fare un guru. Luca, se avrei avuto soldi tu me l'avrei comprato io, sarebbe ritornato a casa quell'apparecchio. Sono gatto. Perché, come si dice, ma ne manda ad un bel zocco in oghe, però vado e li denuncio, brutti bastardi. Che è successo? Cazzo, mi ho mandato 1700 euro di bolletta a pagare. Quanto? 1700 euro di me, ti mando un gatto da foto se vuoi. Ma luce o acqua? La luce. Il cacchio, e cosa c'è? Un reattore nucleare in casa? Anzi, quello la genera la corrente. 1700 euro. Bubu. Ma arretrati avevi? Che cazzo arretrati? Che la prima gliel'abbiamo pagata giusta. Pronto, ma non è che il padrone di casa vi sta facendo pagare luce e arretrata che lui non ha pagato, roba del genere, è successo anche a mamma, Come lui che non ha pagato? Il coso è intestato a... come si dice? È intestato a cosa? È intestato a... a Sara, cioè, non è intestato, non è intestato ad altra gente. No, la prima bolletta è arrivata giusta, 160 euro. La seconda non andava più bene. Noi 150 è venuta a dicembre e l'abbiamo pagata adesso. 150 euro tondi tondi. E più o meno siamo lì, dai. Voi siete in due, noi siamo in due, siamo lì come consumi. Faccio 1700 euro. Claudio, se n'è andato, c'è ancora l'ascolto, forse è andato a mangiare. Claudio, ci sei? Oh, mi sono portato la stufa a gas, bella, davanti alle gambe, hai un bijou, così è bello. Sì, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto... Cioè, non è possibile che io ho consumato quella luce, ma cosa cazzo muovemo, una pizzeria in casa? Sì, infatti. Vai a farti controllare la situazione, dagli la lettura, portagli. Marco, lo sai quanto scalda questa stufa che ho io? Da 18 gradi te lo porta a 26 quando l'accendo. Eia, la tua mi pare, se è quella che mi ricordo io, è a caminetto ed è abbastanza larga, giusto? Sì, ne avevo due, una l'ho regalata, le mani mi dovevo tagliare, me la mettevo in cucina. Ma qui, te la domandata da Marco, ma fatti vedere, cioè questi sono malati. Ma cosa vuol dire quello del... Cos'è successo perché col padrone di casa, non so, da parte vostra? No, allora Anto, ti spiego, mamma ha insegnato tanti anni in Gallura, no? Chi era quello che ti voleva far pagare la luce sua arretrata? Ad Arzachena? No, non era lui, Arzachena era. Sì, Anto, praticamente mamma è andata a insegnare un anno ad Arzachena, ha trovato una casa bellina, però il padrone di casa, che era uno di questi paesi un po' zoticone, voleva farle pagare la bolletta di mesi prima consumata da lui, capito? Ha detto, ma sto scherzando, io pago dal giorno che entro, inizio a consumare e pagherò quella, non devo pagare niente di arretrato suo. E questo si stava inalberando, dice, oh, voglio che mi innando, capito? Avrei denunciato. No, ma è bastato dirglielo e non ha pagato nulla. Lei non è tenuta, lei deve pagare quello che consuma dal primo giorno che entra in casa. Però ci tentano, capito? Ci tentano. E questo, te l'ho detto, era uno zoticone. Non voglio dire, capite bene, non voglio dire quelli dei paesi sono zoticoni. Questo era di un paese, ma era uno zoticone. Era un caso isolato, capito? Un mezzo pastorazzo era. E terragone, come diciamo noi qua. Ma poi infatti sono intervenuti i familiari e hanno detto no, lasci perdere quello che dice Babbo. No, qua vabbè, la casa è di proprietà, per fortuna. La casa di proprietà, non abbiamo affitto, eccetera. Certo, un po' è di stile vecchio questa casa. Per esempio non hai l'impianto dei termosifoni pronto, dovremmo sfasciare tutti i muri, non fa. E mi sa che ci teniamo le stufe a gas, così almeno sei più contento tu, Anto. Ce l'abbiamo una in cucina, una in camera mia, una in camera di mamma, una si era rotta, purtroppo l'abbiamo dovuta buttare, perdeva gas, mi era pericolosa. Sei più contento? Io non, come si dice, non te ne porto le bombole. Ah, non lo so, una volta è venuto un ragazzo con i capelli corti a portarmi la bombola, magari eri pure tu, boh. Non ne ho mai portato io da te, mai. Infatti, che numero facevo? Sai da che mi servivo prima? In Viale Trento. Chi era? Pistorozzi. In Viale Trento c'era uno che aveva l'occhio un po'... un signore in occhiali che aveva l'occhio un po' messo male, non so. Poi però si sono spostati, hanno chiuso quella filiale e la bombola me la portano non so da dove arrivi questa bombola, capito? Ce l'hanno lì a Pradanieda e al Monte, hanno tenuto. Pistorotti si è ritirato. Quinto Pistolino, quello era. Il quinto era, occhio di vetro. Quello lì era dirigente alla Croce Blu, quando era in via Giovanni Pascoli, lì vicino al cinema Rex. Maria, occhio di vetro. Io non lo volevo dire. Sì, comunque è lui, sì, Croce Blu. Qualcuno lo chiamava anche occhio di gomma. Sì, occhio di vetro lo chiamavamo noi. Era poco fantastico, già. Poi fatti a tutti i discorsi, guardi, andavo all'ultimo di dire ci attaccava a fuffa. E noi ridevamo, pigliavamo per il culo. Il numero di telefono è rimasto lo stesso però, mi pare fosse 290287 il numero, e il numero è rimasto quello, cioè io chiamo, poi non so chi mi risponda appunto e la portano, forse Pradanieda come hai detto tu, io non so bene come funzioni, Anto, non so quanti depositi ci siano, chi siano i distributori eccetera. Ma già li conosco, già non so che cazzo, li conosco tutti io. Adesso quello con i capelli a zero, quello lì è coso, magari veniva sempre Antonio, veniva, cioè, adesso vengono i ragazzi, vengono quelli, capito? Vengono nuovi ragazzi a portarti la bombola. Sì, sì, infatti è gente che non conosco. Mentre qua in Viale Trento veniva il signor Antonio. Signor Antonio, uno con i capelli che non, è, non ha via praticamente quasi. Ehi,